ciò che sarebbe poi successo dopo la maturità. Eccoci che attraversiamo i girasoli bucanieri nati, andiamo via dalla realtà. Coperto le...